sopra un campo verde, sotto un cielo blu, conquistate voi una stella in più a brillar per noi, e insieme cantiamo. Oh, oh, oh.